Ma io credo che la possibilità di raggiungere un accordo che abbia un futuro fra le parti esiste, e direi che il punto di partenza per questo accordo è la consapevolezza da parte dei sindacati, ma anche da parte dell'azienda e da parte del governo, che l'Italia non è più il principale sito produttivo del gruppo Fiat nel suo complesso, ma è di gran lunga il principale mercato, e quindi qui c'è la ragione di diciamo è la ragione di scambio su cui si può pensare di diciamo così conquistare la Fiat a quell'idea riformista di Ichino, che io condivido dall'A alla Z, di una trasformazione agile, dinamica delle relazioni sindacali, ma non di ma non il taglia fuori, perché poi dopo ci ritroveremo i terroristi, la dico in un modo molto tranchant, ma quello è il destino. Passati una volta, non ci passiamo. Evitiamo, ecco è questo. Quindi regole di rappresentanza che consentano a chi non è d'accordo di continuare a dire che non è d'accordo, ma senza per questo essere tagliato fuori, perché sennò si rafforza il partito delle pistole.